Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Ci sono troppi centri commerciali nelle nostre città e nei dintorni, soffocano il commercio. È quanto cercheremo di capire oggi a Essere Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, partendo dal caso del Piemonte, dove la giunta ha deciso di porre un freno alle licenze. Torniamo poi a parlare delle Coalition Card, le carte fedeltà che permettono di raccogliere punti per diverse insegne e per il focus sui trend di Good Enough Revolution, la rivoluzione del buono quanto basta, i prodotti semplici e non troppo costosi che fanno tendenza. Prima però ci sono le notizie e curiosità della settimana. Dalle macchine biomediche ai nuovi procedimenti per imbottigliare il vino, dai contenitori per la pasta al design d'autore. L'Italia si conferma paese di inventori. Negli ultimi 10 anni ha registrato 36.000 invenzioni, piazzandosi all'ottavo posto nella classifica dell'Ufficio Europeo Brevetti. Sbarca a Milano la storica pasticceria parigina La Durée. Fondata nel 1862, 16 insegne nel mondo, è uno dei simboli della Ville Lumière. I suoi macaron, dolcetti di pasta di mandorle ripieni, vantano decine di gusti e collezioni. Non più solo t-shirt, arrivano le gomme da moto personalizzate. Ci ha pensato Pirelli, che per i nuovi pneumatici Diablo Rosso Corsa offre la possibilità di creare sul sito speciali etichette da applicare sui fianchi. Si ricevono poi a casa con il kit di montaggio. Terza edizione per Fashion Against AIDS, iniziativa benefica del colosso svedese H&M. La collezione rock, dedicata al mondo dei festival e dei concerti estivi, comprende anche tende e sacchi a pelo. Il 25% del ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi per la lotta al virus. 2009 in frenata per i grandi gruppi italiani della moda. Secondo i dati della società di consulenza Panbianco, il fatturato è calato in media del 4%. Pesano le perdite di Versace, -20%, e Roberto Cavalli, -16%. Unici gruppi in crescita, Calzedonia, +13%, Coin OVS, +9,5%, Gucci, +2,7% e Tod's, +0,8%. Si celebra sabato 8 maggio la giornata mondiale del commercio equo e solidale, lanciata dalla World Fair Trade Organization, la rete globale presente in oltre 70 paesi, prevede iniziative in tutto il mondo per sensibilizzare su crisi alimentari ed economiche, riduzione della povertà e cambiamenti climatici. La borsa della spesa. Stop ai grandi centri commerciali, bisogna aiutare i negozi di vicinato e i mercati rionali. Il cambio di rotta arriva dal Piemonte, dove una delibera della nuova giunta regionale limita i nuovi spazi e azzera alcuni progetti. Anche a Roma recentemente il sindaco Alemanno si è detto favorevole al blocco delle nuove aperture. La costruzione dei centri commerciali, ha detto, è andata oltre il limite. La questione è molto dibattuta nel mondo del commercio. Se ne parla da tempo, sono davvero troppi i centri commerciali nei dintorni delle nostre città, quelli che il sociologo Marco Gé ha definito i non luoghi. Analizziamo il caso del Piemonte per cercare una risposta. Partiamo dai numeri. In Italia, dati Federdistribuzione aggiornati al 2008, la grande distribuzione organizzata conta oltre 32.000 esercizi tra super e ipermercati, discount, grandi magazzini e simili. In quanto a concentrazione, guida la classifica la Lombardia, con oltre 4.000 esercizi, seguiti da Lazio e Sicilia, 2.800, Veneto, 2.700, Puglia e Campania, 2.600, Piemonte, 2.200 ed Emilia-Romagna, 2.100. In Piemonte se ne contano in particolare poco più di 2.200 per circa 800.000 metri quadrati di superficie. Proprio Federdistribuzione si dice molto preoccupata per la decisione del Piemonte. Sentiamo il delegato torinese Savino Russo. Questo non riguarda solo esclusivamente gli ipermercati e i centri commerciali, ma riguarda anche tutte quelle attività superiori a 2.500 metri non alimentari, no? Puoi immaginare la Regione Piemonte, poi Torino, capofila, è sicuramente uno di quei luoghi dove comunque lo sviluppo può passare dalla grande distribuzione. Per me le due cose devono ovviamente coesistere, perché questo è motivo anche di concorrenza. La concorrenza si fa con la possibilità di avere un mercato specializzato sicuramente del piccolo e poi un mercato organizzato e con magari un prezzo molto più concorrenziale della grande. Ecco. Il Piemonte ha una cultura molto forte dei centri storici, abbiamo sicuramente delle aree che in qualche modo vanno in contrapposizione a volte a queste aree più moderne costruite ad hoc, ma c'è anche tutto un discorso comunale e provinciale per quanto riguarda gli strumenti urbanistici. Ecco perché dico la cosa deve essere sicuramente in qualche modo rivista. Applausi alla regione arrivano invece dai commercianti. Maria Luisa Coppa, Ascom Torino. È da tempo che chiediamo uno stop alla grande distribuzione. Questa volta potrebbe essere la volta buona in cui veramente si va a ridisegnare il quadro dei consumi. Questo non vuol dire che siamo contro qualcuno, che ci debba solo esistere una forma di distribuzione, però negli ultimi anni non sono stati più presi in considerazione gli interessi dei consumatori, ma sono state esclusivamente speculazione edilizie, favoriti dagli oneri di urbanizzazione che chiaramente hanno fatto gola a tutte le amministrazioni, in particolare quelle con difficoltà di bilancio. Quindi noi abbiamo pagato un prezzo pesantissimo sul commercio in una regione Piemonte che volge al turismo. Come può esistere una città, come possono esistere le vie, le piazze dei nostri centri storici se non c'è il commercio, se non ci sono i ristoranti, se non ci sono i pubblici esercizi? Perplesse le associazioni dei consumatori che criticano l'assenza di un confronto preventivo e parlano di operazione d'immagine. Giovanni Dei Giudici, presidente di Federconsumatori Piemonte. È chiaro che va affrontato il problema. È vero che dei piccoli negozi di vicinato svolgono anche un'azione sociale, ma il discorso è un pochino più complesso e va fatto nella sua interezza. La giunta, cioè l'assessore al commercio, ci poteva convocare, si apriva un tavolo, se ne discuteva. Ritengo che bisognerebbe fare prima un piano per capire se effettivamente sono troppi i supermercati sul territorio piemontese o se sono pochi. Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli. Torniamo a parlare dei programmi fedeltà che permettono di raccogliere punti in negozi diversi. Il mercato si è appena aperto in Italia e all'orizzonte ci sono già i nuovi player. Qualche puntata fa abbiamo parlato di Nectar, la prima carta di fedeltà che anziché far raccogliere i punti in una sola catena permette di raccogliere i punti in diverse catene di vendita, in pratica una coalition card. Allora è proprio il caso di dirlo, l'appetito viene mangiando. Infatti alla fine di questo mese sarà annunciato un progetto che ha, almeno sulla carta, la possibilità di sbaragliare la concorrenza. Si sono messi assieme la Posta, Visa Mastercard e Value Lab, una società specializzata in strategie di marketing e di geomarketing. Attraverso le carte della Posta il cliente potrà acquistare, accumulando sconti, ogni frazione di 10 euro di spesa in circa 40.000 negozi entro la fine di quest'anno. In pratica, facendo la spesa nei negozi convenzionati e nelle catene contrattualizzate, il cliente troverà, attraverso l'uso delle carte che abbiamo appena ricordato, un ammontare di denaro pari allo sconto promesso sulla sua carta o sul suo conto corrente. Con questa strategia si passa dalla carta Coalition, quella di Nectar, alle carte basate su un acquisto programmato, tecnicamente chiamate cashback, cioè che ti ridanno del denaro contante dopo gli acquisti. È una bella rivoluzione, finalmente un po' di competizione in un settore contrassegnato solo da premi in piatti e bicchieri o pentole e piccoli elettrodomestici. Essere e avere. Essere e avere, seconda parte, come sempre, dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Buon pomeriggio, Patrizia. Buongiorno a tutti. Good enough, buono quanto basta. Questo è il tema della puntata di oggi, una riflessione sulla diffusione nel mondo dei consumi e dei servizi dei prodotti abbastanza buoni. Prodotti, cioè, dal buon rapporto qualità-prezzo che preferiscono la semplicità alle persone. prestazioni, l'accessibilità all'eccellenza. È il low-tech contrapposto all'high-tech, ha scritto qualche tempo fa Wired, parlando di good enough revolution, che non vuol dire, attenzione, rinunciare in questo caso alla tecnologia, significa piuttosto valorizzarne i prodotti semplici, utili e non troppo costosi. Patrizia. Per dirla con gli economisti, ma anche con i teorici della complessità, possiamo parlare di soluzioni subottime, cioè quelle che si avvicinano a quelle ottime, ma ottime non lo sono. Insomma, passando ai consumi subito, parliamo di prodotti e servizi che sono soluzioni, diciamo, imperfette, ma che ci sembrano comunque adeguate per circostanze, momenti e bisogni specifici. Quindi il vero punto della Good Enough Revolution è appunto la domanda delle domande, cioè è abbastanza buono per chi? Questo abbastanza è riferito a quali consumatori? Perché good enough è una proprietà, come si dice, dell'osservatore, cioè di chi valuta e attribuisce valore. Quindi di nuovo anche questa tendenza ribadisce innanzitutto la centralità del consumatore come soggetto forte, influente nel mercato contemporaneo, consumatore che fa i suoi personalissimi bilanci qualità-prezzo, appunto, e il good enough diventa un criterio valutativo sempre più applicato. Questo ragionevole trade-off tra emozioni e razionalità e bisogni del momento che ci guidano nelle scelte. Per saperne di più, di recente uscita il saggio La Good Enough Society, Sopravvivere in un mondo quasi ottimo, di Paolo Magrassi, che appunto riporta alcune indicazioni e formule che delineano molto bene questo nuovo paradigma dei consumi. Più che di una società o anche di rivoluzione del good enough, altri analisti ritraducono il fenomeno, al di là dell'etichetta molto suggestiva di cui parliamo oggi, nel riconoscimento di ciò che il consumatore vuole, come dire, meno qualità, meno performance, però più convenienza, più flessibilità, più resistenza dei prodotti. E se è questo quello che esprime la domanda e se questa valutazione di sufficienza soddisfa il consumatore, bene, stiamo parlando proprio di questa nuova antropologia dei consumi. E in effetti pare che la saggezza delle folle abbia proprio cambiato e stia cambiando i parametri di valutazione. Pensiamo a YouTube, sappiamo, il più grande archivio digitale di video generati dagli utenti in rete. Bene, questi video hanno una definizione, se ci pensiamo, molto bassa, sono però disponibili, accessibili facilmente sempre a tutti e a costi bassissimi. Pensiamo a Skype e alle videoconferenze, che sono una soluzione subottima, appunto non perfetta rispetto a una riunione tradizionale, ma si abbattono i costi di travel e living e per alcuni obiettivi risultano canali comunicativi sufficientemente efficaci. Quindi il tema è un po' questo. I panorami sono sempre più complessi e le soluzioni pare che non possano che essere subottime sempre. Quindi la parola chiave, come già anticipavi, è appunto semplicità, semplificazione, però non fini a se stesse, ma come una nuova taratura proprio mirata su bisogni e desideri di quel momento dei consumatori. Chiudo con una soluzione davvero imperfetta, quella erogata dalla Shoe Vending Machine, il distributore automatico di ballerine, si chiamano Rollasol ed escono arrotolate sbatacchiando nella macchinetta, che è posizionata in moltissimi locali della nightlife europea americana, non ancora in Italia. Quindi per le italiane che non trovano questi dispenser c'è il sito rollasol.com. quando i piedi fanno malissimo, questa ballerina molto leggera dalla suola sottile gommata a 8 euro è in realtà contemporaneamente imperfetta, perché non l'avremmo comprata altrimenti, ma perfetta perché è esattamente quello che ci vuole. E c'è un film che anche nel titolo richiama questa tendenza, è Basta che funzioni, l'ultimo film di Woody Allen. Vi proponiamo il monologo finale. Ecco perché non lo dirò mai abbastanza. Qualunque amore riusciate a dare e ad avere, qualunque felicità riusciate a rubacchiare o a procurare, qualunque temporanea elargizione di grazia, basta che funzioni. E non vi illudete, non dipende per niente dal vostro ingegno umano. Più di quanto non vogliate accettare è la fortuna a governarvi. Quante erano le probabilità che uno spermatozoo di vostro padre tra miliardi trovasse il singolo uovo che vi ha fatto? Non ci pensate, sennò vi viene un attacco di panico. Io sono l'unico ad avere una visione d'insieme. Ecco quello che chiamano genio. Patrizia, al di là del film gustosissimo, cinico e dissacrante in perfetto stile Woody Allen, non c'è il rischio che sottolineano molti osservatori della mediocrità? No, io non credo ci possa essere questo rischio perché intanto le cose mediocri sono cose mal riuscite o appena al di sopra degli standard di accettabilità, cioè quelle di cui si intravede quel che non sono riuscite a diventare più che quel che sono. Invece il basta che funzioni di cui parliamo oggi è quello che gli anglofoni chiamano il right contenting, cioè il giusto contenuto, né più né meno, cioè la giusta dose di quel che mi serve. Altri esempi potrebbero essere, rispetto a quelli che già facevo, i voli low cost, basta che mi portino a destinazione, le automobili senza troppi optional che se fanno solo status ma di fatto non mi servono, non fanno la differenza, posso non prenderli, i lettori MP3 di nuovo con cui ascolto musica, una definizione chiaramente non ottima, ma quel che mi interessa è portarmela in giro la musica e così via. Quindi il focus è sull'essenza, sul cuore delle cose che interessano il consumatore. E c'è un bel esempio, quello della birra, cioè di una birra tedesca che si chiama birra, il vetro è scuro, bruno, la fascetta bianca, c'è scritto beer in tedesco e la quantità 0,33. È quello che si dice un prodotto senza fronzoli, basic, avevamo anche già dedicato una puntata a questa altra tendenza, in un panorama beverage dominato ormai dalle moltissime novità bio, da birre anche ai gusti di frutta, la mela, la ciliegia, insomma, la birra si sta imponendo come un modo semplice ed efficace di risolvere anche il problema del branding, cioè della scelta tra decine e decine di brand, che a volte è anche disorientante per chi non è cultore della materia, diciamo, e vuole semplicemente una birra. Quindi, come dire, basta che sia birra e buona. Infatti lo slogan di questo prodotto parla chiarissimo, Geschmack braucht keinen Namen, il gusto non ha bisogno di nomi. Allora è un good enough con gli standard esperienziali e di gusto molto alti, sofisticati dei consumatori di oggi, che risentono pesantemente della diffusa estetizzazione degli oggetti quotidiani di cui abbiamo parlato più volte, quindi dagli utensili da cucina all'elettronica al packaging del food alle bottiglie d'acqua siamo abituati a uno standard di design ormai di un certo livello, quindi non significa accontentarsi di cose mediocri. Anche nelle scelte d'acquisto di prodotti e soluzioni di servizio subottimali sappiamo che stiamo rinunciando al meglio, ma ne siamo consapevoli, non ci importa perché facciamo comunque una scelta funzionale ma non a discapito dell'estetica. Prendiamo i cellulari per anziani con pochi tasti enormi, con la funzione esclusivamente di telefono. Chi li compra non si sente certo privato di quello che non ha. Anzi, è un target che se comprasse un telefono più complesso probabilmente avrebbe anche la frustrazione di tutto ciò che non sa e non sta usando. Quindi per questo target è abbastanza, è sufficiente telefonare. La facilità d'uso per la funzione ritenuta importante fa sì che la loro soddisfazione sia piuttosto alta. Per chiudere in maniera semiseria, il good enough è anche un criterio valutativo sul fronte relazioni per il partner. Secondo la scrittrice Lori Gottlieb è meglio accontentarsi di un compagno sufficientemente accettabile, non sprecare la vita a cercare il grande amore, quindi meglio tenersi stretto quello che capita. È il titolo del libro Mr. Good Enough, un signor marito tutto sommato buono che però in questo caso si suona molto di mediocrità. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo nel mondo su Good Enough e dintorni? In collegamento c'è come sempre la nostra Urban Watcher di Memi, Alessia Zampano, bentornata. Grazie, un saluto a tutti. Il massimo del minimo potrebbe essere il titolo del collegamento di oggi. Alejandro Aravena è un architetto cileno che ha fatto solo una breve ma provocatoria incursione nel mondo del design progettando Chairless, che come dice il nome stesso è una sedia non sedia. È prodotta dall'azienda tedesca Vitra e altro non è che una fascia di poliammide particolarmente resistente che si avvolge intorno alla schiena e alle ginocchia per sostenere il corpo. È capitato a tutti prima o poi, no, di essere seduti a terra, al parco, in spiaggia, a un concerto, banalmente in casa, costretti a cingere le braccia intorno alle gambe per rimanere comodi. Ecco, questa fascia fa esattamente lo stesso lavoro, lasciando però le braccia libere per mangiare, leggere, lavorare al PC, ascoltare la musica, insomma per fare qualunque cosa ovunque ci si trovi. È un'idea talmente semplice che si spiega da sola e che rispecchia in pieno l'approccio progettuale di Aravena centrato sulla ricerca dell'essenziale. L'oggetto sedia è infatti ridotto al minimo, privato di tutto tranne che della sua funzione. Quello che rimane è solo il gesto universale di sedersi. L'ispirazione arriva infatti da un'antica usanza diffusa tra la tribù sudamericana degli Ayoreo. Pensando ascoltandoci è tutto quello che ci serve. Da questo oggetto non si può togliere niente. In questo senso chairless è un oggetto radicale, anzi, come lo definisce lo stesso progettista, un oggetto irriducibile. Grazie Alessia. Patrizia, è proprio il caso di dirlo, less is more, questo esempio è veramente emblematico. Quanto gioca, siamo in conclusione, quanto gioca o ha giocato nel diffondersi di questa tendenza l'overdose di innovazione consumistica che in questi tempi di crisi, lo hanno riconosciuto in molti, è diventata per certi versi insostenibile? Sì, è insostenibile nel senso che l'innovazione in dosi massicce a volte diventa ipertelica, cioè va oltre le nostre capacità d'uso e quindi diventa inutile. Farei una considerazione finale sul concetto di soddisfazione che c'entra molto con il tema del good enough. Soddisfazione che è un parametro con cui misuriamo le nostre esperienze di consumo e che è correlata all'importanza che diamo alle cose. Ce lo insegnano i teorici della qualità totale, si può essere anche molto insoddisfatti a fronte di una sovraqualità di un prodotto, se di quella sovraqualità non ci importa. È famosissimo l'esempio dei 12 cuscini tra cui scegliere nelle stanze di un hotel che regolarmente aveva clienti che se ne lamentavano. Quindi dal punto di vista dell'offerta, good enough significa fare più attenzione a che cosa chiedono le persone davvero, pensare a prodotti e servizi innovativi quanto basta, ma mirati ai bisogni, con una conseguente probabilità di soddisfazione molto alta. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, potrete riascoltarla e scaricarla come sempre dal nostro sito radio24.it, sezione podcast, in attesa di risentirci domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.